fossi io, viene lento di vagare, una musica brutale incendio nostra passione. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Si diceva qualche decennio fa: tremate, tremate, le streghe sono tornate, ma quelle streghe nulla avevano a che fare con il fascino e la meraviglia delle vere streghe, quelle che realmente bruciarono sul rogo. Queste streghe non le ha bruciate nessuno, quelle che tornavano sono rimaste, anzi molte hanno luoghi di prestigio nella nostra società, la loro streghitudine in fondo è stata funzionale. Noi abbiamo sollevato il 21 novembre 2008 il tema delle streghe, ci siamo accorti che nel pubblico della radio c'erano tantissime streghe, ci hanno chiamato persone disposte e disponibili a uccidere attraverso filtri magici o lanciare i loro incantesimi. Insomma, la stirpe delle streghe non è stata sterminata né dal fuoco del grande inquisitore né dalla passeggera febbre delle streghe che erano tornate. E oggi vi proponiamo di nuovo questa puntata. Il grido di un bambino bruciato nel camino, nell'occhio di una strega il diavolo s'annega e spunta fuori l'ombra, l'ombra della strega. La vigilia d'ogni santi c'ha paura tutti quanti, è la notte delle streghe. Questa mattina non sarà una trasmissione democratica, non è aperta a tutti, è aperta soltanto alle persone che mi chiameranno e mi confesseranno di essere streghe. Questa mattina voglio streghe, 80024, 0024, soltanto le streghe possono chiamarmi. Cosa intendo per streghe? Non intendo assolutamente la versione modernizzata delle streghe, non intendo le donne che prendono coscienza di se stesse, non intendo la signora che mi ha chiamato questa mattina dicendo: ah Nicoletti, vuoi fare anche te il rogo alle streghe? Hai paura della nostra animalità femminile? Ma non ho paura di niente, però voglio conoscere le streghe, voglio alzarmi contento da questa sedia in cui sono inchiodato tutte le mattine dicendo: finalmente ho parlato con una strega. Io le streghe ne sento parlare da quando sono bambino, vengo da una civiltà, da una cultura contadina in cui esistevano le streghe. Le streghe erano quelle che la mattina trovavi le criniere dei cavalli con le treccine, erano state le streghe. Le streghe, mi dicevano, andavano incontrate di notte e pungicate con il forcone per far uscire il loro sangue. Chi erano le streghe? Ma non so, erano le levatrici vedove, erano la parrucchiera zoccola nubile che serviva anche da elemento di compensazione dei rapporti coniugali dei contadini, ma era strega negli occhi delle donne. Cosa facevano di male? Ma non facevano niente, non so, qualche volta rendevano impotenti gli uomini, era colpa loro nei casi di emorroidi, cisti, furuncoli, unghie incarnite, creste di gallo, erano sempre le streghe. La strega era quella che faceva venire la pepita alle galline e non faceva fare loro le uova. La pepita è una specie di callo che viene alla lingua delle galline, che va strappata, la gallina strilla, è colpa della strega, era sempre colpa della strega. Ogni tanto buttavano il malocchio qua e là, ogni tanto durante la mietitura, la battitura, erano quelle che alzavano il gomito e si lasciavano andare, ballavano sull'aia, quelle erano le streghe. Beh, oggi vorrei sapere cosa è rimasto di queste donne, che fine hanno fatto le streghe. 80024 0024. Noi siamo circondati dall'idea che esistano le streghe e assorbiamo in noi il concetto della strega assieme a quello della madre. La madre ci nutre, la madre ci protegge, la madre è stata strega perché ci ha messo al mondo, ma fuori nel buio c'è la strega. Tutte le favole sono costellate di streghe. I bambini crescono, anzi crescevano, all'ombra delle streghe, pieni di streghe. Pensate alla strega di Hansel e Gretel, l'avete sentito all'inizio con la canzoncina, era qualcosa che assomigliava alla strega che si mangia i bambini. Sono sempre affamati i bambini, hanno sempre queste grosse zanne, ma anche grosse tette, perché la strega ti attira, la strega ti piace, la strega è qualcosa che ti mangia. Io non voglio bruciare le streghe questa mattina, ma voglio essere bruciato dalle streghe. Ecco, vediamo. Un filtro che possa trasformare la mia perfetta beltà in bruttezza e il mio manto regale in un mucchio di poveri stracci. Polvere di mummia per invecchiare, per tingere le vesti il nero della notte, per arrochire la voce risata di strega. Per imbiancare i capelli, un urlo di terrore. Turbine di vento per agitare il mio odio. Uno schianto di folgore per mischiare il tutto. Filtro, compi la tua magia. Io penso che ogni strega sa perfettamente di essere una strega, anche se non è una strega che ha un contatto costante, se non fa con le sue consorelle, non è una strega che fa parte di un circolo di streghe. Poi esistono streghe che oggi sono socialmente organizzate, parleremo anche con qualcuna di loro. A me piacciono le streghe tipo Giulia, che mi scrive in questo momento su Facebook dicendomi: io brucio un elettrodomestico al mese, dicono che ho troppa energia, sogno le persone e queste mi vengono a trovare, non faccio sortilegi né fatture, ma esistono anche le streghe buone. Beh, io vorrei parlare con qualche strega buona, di quelle che ogni giorno amministrano consapevolmente l'arte stregonesca. Hanno baluginii, hanno allucinazioni, hanno sensazioni, hanno il senso profondo di possedere l'arte stregonesca, ma non lo dicono a nessuno. Ditemelo questa mattina, 800 24 00 24. Le mie mani, la mia voce, la mia voce. Nessuno mi riconoscerà. E ora vediamo quale orribile morte per una così bella. Che cosa scelgo? La mela stregata. Il sonno della morte. Basta un solo assaggio della mela stregata e gli occhi della vittima si chiuderanno per sempre in un sonno mortale. È varia la percezione che hanno le donne delle streghe, del loro essere streghe, delle streghe che circondano il mondo degli uomini, degli uomini che cercano streghe per farne scempio, per bruciarle. Mi scrive sempre su Facebook Chiara, dice: ardua impresa questa mattina, nottetempo riflettuto, perché io metto la notizia del programma già dalla sera prima in rete. Vivo nel nord-est, luogo di novella caccia alle streghe. Qui le cercano abbronzate, magari disposte a essere sottovalutate e sottopagate. La caccia alle streghe conobbe più fasi. Una prima, tra il 1300 e il 1400, decisamente più moderata. In quel periodo il potere, pur preoccupato dall'attività delle streghe, si concentra nella persecuzione degli eretici, limitandosi a punire i casi di stregoneria con penitenze o condanne pecuniarie o con il carcere. Un uomo a Verona uccide la moglie e storicamente c'è un'uccisione sistematica da parte di uomini motivata da ragioni profondissime, non giustificabili naturalmente, ma rispondenti all'eterna paura che l'uomo ha sempre avuto per questo aspetto e per questo sortilegio sottile che emanano le donne, che lui non capisce, non comprende e non riesce a possedere, e allora cosa fa? Le uccide. Con il 1486 le cose cambiano. È questo infatti l'anno della pubblicazione del Malleus Maleficarum, letteralmente il martello delle streghe, scritto da due domenicani e che diverrà la guida di tutti gli interrogatori per stregoneria. Il Malleus Maleficarum introduce alcuni mostri giuridici, come la dichiarazione che anche lo scettico può essere ritenuto complice della strega, oppure che l'inquisitore, per ottenere una piena confessione, può avvalersi non solo della tortura, ma anche dell'inganno. Paolo da Roma, la prima strega che mi chiama. Lei può parlare soltanto se mi prova che lei sia una strega. Intanto sono nata il 24 giugno, che come lei saprà è la notte delle streghe. Certo, la notte di San Giovanni. È la notte di San Giovanni. Una delle due porte solstiziali, quella d'estate, la più terribile. È la notte delle streghe, si fanno i roghi, ormai sono rimasti solo i roghi, fortunatamente sopra non ci sta più, le donne non ci stanno più sopra. C'è l'arrosto su qualche parte. Da qualche parte, ma c'è molto fumo. Già questo denota una sua sapiente conoscenza del mondo maschile, molto fumo e poco arrosto. Allora, secondo me io sono una strega perché ho capito fin da bambina di avere una grossa energia dentro, quella grossa energia che probabilmente hanno avuto sempre le donne che poi sono state Niente storia, esperienza personale. No. C'è Google personale per la storia oggigiorno. Io capivo che ero fortunata, ho sempre pensato di essere fortunata perché ritrovavo le cose, incontravo le persone giuste, dicevo ti auguro questo e succedeva. Poi un giorno è successa una cosa molto brutta, una mia amica è stata ammazzata da un uomo che voleva lasciare, da ragazzina, eravamo adolescenti, e io ho concentrato tutta quell'energia, io volevo che morisse, ma... E c'è riuscita? Sì, ah, lui si è schiantato fortunatamente senza coinvolgere nessuno, senza far del male a nessun altro, perché io questo volevo. Quindi un bel lavoretto pulito da strega. Volevo che morisse solo lui. Quando mi sono resa conto di avere questa forza, io mi sono spaventata. Mi sono spaventata e l'ho tenuta sempre da una parte, l'ho tenuta sempre in serbo, ecco, se mi succede un'altra cosa così grave, se mi succede un altro dolore così grande, non è da sprecare per le stupidaggini, non è da sprecare per le vendette, non è da sprecare per gli amanti che ti lasciano, non Dunque è... lei è come se avesse una pistola chiusa in cassaforte, sa che se vuole lì carica la può usare. Sì, però siccome era così positiva, era così allegra questa mia potenza, nel senso che se dicevo dai forza che il concorso lo so che ti andrà bene, oppure una mia amica che non riusciva a rimanere incinta, io una notte ho sognato che rimaneva incinta. E si è ingravidata da sola? Prego? Si è ingravidata da sola l'amica? Non siamo arrivate alla partenogenesi e ci avrebbero già bruciato da un pezzo tutta quanta. Guardi, lei con quello che ha detto già rischia abbastanza, quindi io terrò riservato e segreto il suo nome e la terrò da parte caso mai avessi bisogno di lei. Grazie. A questo punto facciamo intervenire una persona che probabilmente di streghe, almeno dal punto di vista della storia delle streghe, ne sa qualcosa di più. Al telefono la professoressa Antonietta Di Vito, che è un'antropologa. Buongiorno. Buongiorno a voi. Io ho voluto che lei stesse in ascolto i primi minuti di questa trasmissione per vedere se dal suo punto di vista, visto che le sto dando un'occasione scellerata, se le vuole, di osservazione sul territorio. Cosa ne dice di questa strega moderna? Sì, anche infatti sono molto, molto lieta, avrei anche curiosità poi di farle qualche domanda. Ma io credo che di questa strega moderna, così come poi anche alla luce delle considerazioni iniziali che sono state fatte in maniera evocativa, ma tuttavia portano poi... Professoressa, guardi, evidentemente il sortilegio fa sì che la sua linea telefonica sia disturbatissima. Se lei mette giù un secondo il telefono, la richiamiamo sperando che da questo punto di vista lei non sia considerata come un supporto all'inquisitore, quindi possa tranquillamente parlare. Quindi metta giù, la chiamiamo tra un istante. Sono Edera e ho 29 anni, vivo in Toscana, io ho un negozio, un'erboristeria tradizionale, quindi non la classica erboristeria dove si vendono solo prodotti inscatolati, ma dove io miscelo tisane, faccio proprio cose ad hoc per le persone che vengono, che mi richiedono cose per curarsi. Edera ci ha telefonato qualche giorno fa dicendo: io sono una strega e voglio raccontarvi il mondo delle streghe. Edera fa l'erborista, Edera quindi ufficialmente maneggia piante, maneggia alambicchi, fa misture e fa pozioni, ma nessuno sa che in realtà ella è una strega. Grazie anche agli studi che stavo compiendo in questo ambito, alle persone che ho conosciuto, dentro di me è cominciato a crescere proprio come un germoglio di una piantina, no? Una verità che mi diceva: guarda, tu non sei così, tu non sei fatta per quel tipo di vita, tu sei fatta per un altro tipo di vita. Piano piano ho cominciato a sentire dentro di me la mia natura di donna e anche di strega, se si vuole appunto chiamare così. In realtà essere strega, almeno per me, significa connettermi con la mia vera natura, con il mio vero intimo, con quello che veramente sono. Edera fa parte delle streghe consapevoli, delle streghe che sono svegliate, le streghe che sono entrate nel circolo magico e fatato della società delle streghe, ma esistono anche streghe che hanno soltanto qualche intuizione, come ho già detto, qualche baluginio, come Virginia che mi scrive su Facebook, mi dice: da sempre se assisto a un matrimonio so se durerà o no, anche se sembra la coppia perfetta, se divorzeranno io lo so. strega, diciamo, opera con gli elementi naturali per provocare dei cambiamenti nella realtà, magari utilizzo delle corrispondenze che possono essere i colori, le erbe, le pietre, tutte cose che provengono dalla natura, e a seconda della corrispondenza io scelgo quella cosa. Voglio aumentare il mio denaro, utilizzerò un colore che è in accordo con i beni materiali, quindi ad esempio il verde o il marrone, che sono i colori della terra, la materialità, l'abbondanza. Io credo che alla fine il fine ultimo è lo stesso per tutti, no? Per tutti i percorsi spirituali, cioè essere felici qui in questa vita. Professoressa Di Vito, l'abbiamo recuperata? Sì, eccoci. Perfettamente. Ha fatto qualche scongiuro, sortilegio, perché la sua voce ci arrivasse così cristallina? No, abbiamo cambiato telefono, però vede com'è facile farsi anche un po' suggestionare dal linguaggio stregonesco, diciamo così, quindi immediatamente abbiamo utilizzato una categoria che appartiene a questo mondo. Non trovo che sia una colpa, trovo che sia meraviglioso avere ancora volontà di farsi suggestionare. Sicuramente lo è, però forse è anche il caso sempre di fare il punto poi su che è stata anche la realtà storica del fenomeno stregonesco. Del resto lei stesso lo ricordava all'inizio, il fenomeno della caccia alle streghe ci porta poi su una realtà che non è così così suggestiva e idealizzante come appare da queste bellissime testimonianze che abbiamo sentito. Secondo lei, professoressa, le streghe venivano cacciate per essere massacrate, uccise? Poi sappiamo, le macchine inquisitorie per trovare il segno della strega erano sempre oggetti estremamente particolari, le aprivano, le squartavano, le guardavano come erano fatte dentro, cercavano il segno del diavolo nelle loro zone intime. Non è che in realtà il mondo maschile ha sempre desiderato le streghe, perché erano donne che avevano un contatto con la natura che l'uomo temeva e da cui era attirato? Sì, questo è sicuramente un aspetto. Io però ritengo che sia anche utile, forse questo mi renderà poco popolare, ricordare che all'epoca dell'Inquisizione, soprattutto durante le fasi più importanti della caccia alle streghe, per l'appunto, erano in realtà i villaggi nel loro insieme, quindi non solamente il mondo maschile che cercava quello che ora noi diremmo un capo espiatorio per spiegare le situazioni di disagio e di povertà. Se lei mi permette, io però tornerei alla situazione non attuale, insomma, agli aspetti che permettono anche alle due signore che così in maniera entusiastica hanno raccontato della loro esperienza di streghe, per provare a dire perché questo mondo comunque è affascinante. Perché il mondo delle streghe, a mio parere, nella sua vastità, è quello però nel quale il potere e la creatività trovano uno strumento e un luogo di espressione. Mi spiego meglio, ma tuttora la creatività è qualcosa che spaventa, che fa paura. Viviamo un'epoca in cui sembra che abbia un prezzo altissimo sul mercato, ma vediamo che tutti i luoghi in cui si dovrebbe esprimere creatività in realtà sono i luoghi più occlusi, più chiusi, più tristi, più ripetitivi e reiterati. Esattamente, in effetti poi come poi si diceva anche negli interventi che mi hanno preceduto, le streghe in qualche modo rappresentano le figure dell'eccesso, però anche nella tradizione contadina evocata di fatto le streghe erano capaci di questa creatività anche giocosa, la creatività che a volte però si declina anche come forma di aggressione sociale. Quindi erano le tristi mogli dei mariti che allontanavano dalla società questo barlume di creatività. Soltanto una battuta, Francesca da Napoli, velocemente prima delle informazioni dalla borsa, qual è la sua qualità o il suo potere di strega? Sì, il mio, chiamiamolo potere di strega, buongiorno a tutti intanto, non è per me, ma l'hanno avvertito gli altri, per meglio dire l'ex marito della mia migliore amica pensa che io sia una strega perché le ho fatto soltanto capire che non andavano più d'accordo ed è colpa mia, secondo lui, se si sono separati. Quindi il suo potere è individuare le corna nelle sue amiche? Sì, più che corna è la mancanza di amore, ecco, chiamolo così. Se non se ne accorgono loro, se ne accorge lei come strega. Grazie Francesca, altre streghe chiamino 800240024, vogliamo capire quali sono i vostri moderni poteri o la qualità del potere di strega che ancora riuscite ad amministrare. Melog 2.0. Ci troviamo nei sotterranei dove venivano segregate le donne sospettate di stregoneria. Vogliamo raccontarvi il caso di una di loro. Si chiamava Franchetta Borrelli. La tortura a cui è stata sottoposta è terribile. Veniva posta seduta sopra un ceppo a punta, legati a mani e piedi dei pesi, in modo tale che il suo stesso peso e quello di questi pesi accessori piano piano la rompessero, la aprissero in due. Pensate la sofferenza. Ci sono delle immagini che parlano di questa tortura e pare che il soggetto raffigurato sia proprio la stessa Franchetta. Bene, lei si dichiarava... No, non posso che ridere di fronte anche a questa tragica immagine. All'ineffabile Giacobbo, vedere la foto di una strega nuda impalata su un cuneo d'acciaio, dite, pensate quanto faceva male. Per dare ancora più pathos alla sua metafisica rappresentazione della caccia alle streghe. Beh, al di là di Giacobbo, in effetti qualcosa è stato fatto di brutto alle streghe in passato. Oggi non faremo mai nulla di simile. Oggi cerchiamo streghe, cerco ardentemente e con grande curiosità streghe in ascolto, del tipo la nonna di Cessari, che mi scrive, il signor Cessari mi scrive e dice che era una vecchia strega di Benevento, di un paese che si chiama Ceppaloni, noto paese naturalmente, il beneventano. Dice solo che il malocchio che si impossessava di lei e riusciva con un metodo antico a eliminare ogni malocchio. Ho al telefono adesso Loredana, una strega chiama a precedenza su tutti. Loredana, buongiorno. Buongiorno. Anche lei è strega? Ma io non ho, come dire, gli elementi per verificarlo e dirlo con certezza. Però intuisce di esserlo. Però qualcosa sì, intuisco, sì, a volte, cioè spesso mi capita, ma specialmente negli ultimi anni, negli ultimi 5, 6, anche 10 anni, di avere delle sensazioni rispetto a persone o a cose e poi si verificano puntualmente. Ad esempio, posso fare degli esempi, a parte il fatto che vabbè c'è una cosa che si è verificata tantissimi anni fa, non è bella da dire, però stiamo parlando di streghe, le streghe insomma evocano delle situazioni non sempre belle. Ma non abbia pietà, dica esattamente non cosa ha fatto. Ho desiderato fortemente la morte di una persona, ecco, questo si è verificato in breve tempo. No, mi piace capire che in realtà il potere vero della strega è nel ricordo, nella sensazione, queste donne che chiamano, è l'arte fulminante di far stecchire la gente che ci sta sulle scatole. No, tra l'altro, ecco, era una persona che non dava assolutamente segni di poter andare via a breve, era una persona giovane. Un uomo giovane, un padre di famiglia con la metà della vita davanti. Era stato un suo amante? No, assolutamente no, aveva soltanto creato delle grosse difficoltà alla mia famiglia, e gli strascichi delle quali ancora ci sono. Cos'era, uno strozzino? No, però è stata la strada per incontrare gente di quel genere. Quindi vi ha messo in difficoltà economica, sempre? Difficoltà economica, certo, sì, assolutamente. Lei, che metodo e che rituale ha messo in atto inconsapevolmente perché quest'uomo schiattasse? Pensavo alla sua morte, ho pensato solo che lui morisse. Ma con insistenza, con desiderio? Con insistenza, tutti i giorni, con desiderio, con soddisfazione. E quando è morto, devo dire la verità, sono stata contenta. Ha mai più pensato poi nella vita di mettere in atto questa sua arte? No, perché vabbè, un po' la paura c'è, però diciamo che insomma... Spero che non si verifichi più, cioè di non incontrare più una persona che meriti questo, ecco, come dire. Va bene, io terrò però a mente il suo telefono e quello della sua collega, perché se avessi bisogno di guardie del corpo, naturalmente non riuscirei a fare a meno di voi. Grazie. Invece abbiamo Erika Dell'Acqua. Buongiorno. Buongiorno. Erika Dell'Acqua, immagino, no? Sì. Ecco, Erika, lei è una strega di altro tipo. Lei probabilmente non vorrà essere associata alle signore che spontaneamente hanno chiamato definendosi streghe e capaci di sortilegi a morte. Lei fa parte, mi sembra, di un filone culturale che lega appunto la figura della strega a una conoscenza degli elementi naturali, a un ritorno a un neopaganesimo che significa un'immedesimazione della natura o qualcosa di simile. Per noi, per la maggior parte di noi, il termine strega non è connesso con l'immagine iconografica culturale. Quando dice noi, a chi allude? La maggior parte dei neopagani. Non vediamo il termine strega come un termine di connotazione negativa, come può essere appunto l'immagine della favola, della donna cattiva. Ecco, voi cosa fate? Cosa fate di stregonesco? Rituali? Di stregonesco, per come lo può intendere magari l'uomo della strada, ben poco. Non si tratta di tramare nell'ombra né di fare il malocchio a nessuno. È appunto una religione naturale che cerca di ricontattare la vera essenza della connessione dell'uomo col divino. Quindi c'è delle ritualità, c'è una liturgia. Sì, assolutamente. Certamente. Io ho sfogliato qualche libro, esiste un'iniziazione, la strega deve costruirsi il pugnale, la spada, la bacchetta, il paramento sacro, deve essere iniziata, legata con una corda rossa, poi ha una sorta di consorteria tra altre streghe che invocano e fanno amicizia con gli elementi naturali, qualcosa che fa parte di quella che veniva chiamata da noi persone della strada magia bianca, qualcosa del genere. In realtà gli strumenti non sono mandatori, non è indispensabile per una strega costruirsi il proprio pugnale, che comunque non viene usato per tagliare o colpire nulla. È chiaro, uno strumento rituale. Direzionatore di energia. E né è necessaria la corda rossa. Diciamo che ci sono delle tradizioni che hanno delle regole più fisse, più stabilizzate nel tempo, e altri che hanno tradizioni più moderne, meno dogmatiche tra virgolette, meno impositive di certe cose. Ecco, lei come si spiega però, Erika, che alcune signore spontaneamente, sollecitate questa mattina dalla mia domanda, che è una domanda impertinente, senza averlo mai pensato prima, rivelano come se fosse reale, probabilmente reale, il loro potere di uccidere, di essere così potenti da muovere le forze sottili da determinare la morte di una persona? Beh, ognuno ha una percezione di se stesso personale. Io non intendo andare ad indagare come si vedono queste altre persone. Diciamo che magari la persona che ha avuto questa coincidenza, secondo me, nella vita di vedere qualcuno di cui desiderava la morte poi morire, forse ha collegato questa cosa con inconsciamente con una sua paura di poter essere stata la causa indiretta di questo avvenimento. Poi chissà. Lei comunque è tranquilla e consapevole che oggi nella tolleranza contemporanea non rischia rogo, non rischia torture, non rischia impalamenti, può tranquillamente amministrare la sua pratica quotidiana. Ogni sorta di religione, prima o poi nel tempo, ha avuto i suoi martiri, i suoi perseguitati. Noi non veniamo bruciati a rogo, grazie al cielo, nei nostri giorni, però comunque abbiamo svariate difficoltà di ordine quotidiano, no? È una religione che viene molto mal interpretata. Grazie Erika. Stefano Morigi. Stefano, buongiorno. Amico buongiorno. Mio, filosofo della scienza. Stefano, per una parte della sua vita, ha studiato fortemente il caso delle streghe di Trioro, un caso storico. Velocemente, qual è il punto di coincidenza rispetto a quello che stiamo facendo e quello che tu hai capito e studiato delle antiche streghe che venivano bruciate a rogo, impalate, come diceva il grande Giacobbo? Ma sì, il punto di coincidenza è un ribaltamento della situazione. Mi scuso con tutte le signore che ho sentito parlare adesso, ma non sono streghe, sono la contraffazione di un archetipo. E la cosa è riconoscibile in pochi termini, in poche parole. Tutte le persone che tu hai sentito hanno finito per ammantare di soprannaturale pratiche o conoscenze che sono naturali. La conoscenza degli elementi, adesso la chiamiamo chimica, la pratica di commettere aborti o di far nascere le persone, o il fascino nei confronti dell'uomo, tutte cose assolutamente naturali che, per dirsi strega oggi, si vengono ammantate di un alone di metafisico quasi un po' tenebroso. Un tempo succedeva esattamente il contrario. L'archetipo della strega avviene e si crea nella storia indicando delle persone che queste stesse pratiche facevano, nella naturalità e nella consapevolezza della naturalità di queste pratiche, di un alone appunto di mistero che doveva in qualche modo dar corpo, questo è importante, dar corpo a un'idea di male. Quindi erano delle scienziate, conoscevano la natura meglio che altre persone? Beh, tieni conto che in quegli anni, sto parlando 400-1500, non c'era ancora la medicina scientifica e sperimentale, c'era l'alchimia, c'era la conoscenza delle erbe e anche la categoria di quella che noi adesso chiamiamo medici, erano dei praticoni che lavoravano non in maniera molto diversa da queste figure. Allora Stefano, resta in ascolto, cioè, dobbiamo dare la linea alle informazioni sul traffico. Da te vorrò sapere, questa sarà la domanda, come mai una volta le streghe volavano sulla scopa e cosa c'è dietro il loro volo sulla scopa. Parliamo di streghe, chiama Elena, se tira un anatema Elena... Questo arriva, vero? Questo arriva, vero? Chiuda la radio, perché sennò questo rimbombo satanico. No, non c'è la radio, scusi. Ah, peggio ancora, allora il rimbombo è dato dalle sue facoltà di strega. No, momento, io non sono strega per niente. Ho avuto la fortuna di nascere di venerdì, perché nella esperienza della mia vita è dimostrato ripetutamente che noi nati di venerdì abbiamo una marcia in più, nasciamo fortunati perché siamo vaccinati. E qual è la sua fortuna? Ma io, la mia vita è una normale vita, senza gloria, senza infamia, senza alti, senza bassi, e quindi è importante. Beh, la mano di gloria era la mano mozzata e mummificata che usavano le streghe, no, per fare il sortileggio. È inutile, dottor Nicoletti, che mi voglia portare sul triste e sul lungo. Ma se lei non è una strega, perché ha chiamato, scusi? No, io no, non ho chiamato, lei non mi strega. Dico che attorno all'argomento da lei suscitato, mm-hmm, e condotto, ci sono delle realtà diverse, non tragiche, non lugubri, però che funzionano. Mi faccio un esempio. Appunto, io, come ho detto, nata di venerdì, auguro a tutti di nascere di venerdì. Chi è nato già è difficile rinascere, però prego, andiamo. Bene, allora, io, così nelle circostanze della mia vita, sono una cacciatrice di malfattori. Sa quelli che vanno in chiesa, tutti santi, tutti per bene, che fanno le collette di carità? Gli ipocriti, si chiamano ipocriti. Ecco, di cui è zeppo il mondo. Certo. Bene. Io quelle con pieno rispetto di chi ci va in chiesa credendoci e praticando. Io non ho neanche rispetto, glielo dico bello e chiaro sulla parte. Sì, ho capito, ma vada al punto, in cosa è strega? Vado al punto, però se non mi interrompe, no, al punto non ci arrivo più. Ma già arrivarci brevemente, però, questo allora, è il problema. Allora, a me è capitato, per circostanze varie, avere a che fare con questo tipo di umanità, gliene tiro belle sulla faccia. Beh, si avverano tutte. Ecco. Cioè gli manda gli accidenti? No, gli dico, tu finisci male perché meriti di finire male. Te lo auguro, regolarmente arriva. E ho un ricco, diciamo, catalogo, chiamiamolo così. Sono tutti sottoterra. Perché? Beh. Perché io penso che l'anatema tirato giusto dall'immunizzato del venerdì di nascita... Sì. Funziona, mamma, se funziona. Non posso dire alla radio in questo momento qual è il mio atteggiamento di fronte al microfono, ma spero che lei continui a volermi bene finché ancora mi sarà dato di avere vita. Stefano Moriggi. Sì. Ci eravamo interrotti, scusa un attimo, mi sono un attimo distratto, e avevo le mani occupate, e torniamo al punto in cui ci eravamo lasciati. Tu hai detto che le streghe, vedi che oggi c'è una consapevolezza formidabile, la signora dice non sono strega, odio sepolcri imbiancati, poi mi dice che in realtà il suo diletto è mandare accidenti e fulminare le persone. È la terza persona che ha chiamato questa mattina, casualmente, che riesce a ottenere di, almeno illusoriamente o concretamente, di poter uccidere persone. Quindi le streghe, come fanno paura oggi, probabilmente lo facevano allora. Ma cosa avevano capito queste streghe? Che streghe volavano sul manico della scopa, che andavano al sabba satanico. Tu cosa hai capito leggendo le carte e studiando? Effettivamente in qualche modo le streghe volavano, effettivamente in qualche modo le streghe andavano al sabba, però io riporto un po' tutto a delle dimensioni un più terra terra, se mi consenti. Perché le streghe volavano? Le streghe volavano perché facevano utilizzo, come si diceva prima, di erbe, alcune delle quali avevano dei poteri, passami il termine, allucinogeni. Ti faccio l'esempio di un'erba, si chiamava l'aconito, è un'erba mitica, era già nota ai tempi di Omero, è un'erba antichissima, è un'erba che è legata al mito, addirittura Ercole, quando va a prendere il Cerbero, il cane dalle tre teste, negli inferi, lo porta fuori, mentre lo trascina, Cerbero perde la bava che va a impregnare il terreno, da quel terreno nasce una pianta dalle foglie verde scure e dai fiori azzurri, e quello è l'aconito che diventerà poi l'erba delle streghe. Quindi già ha una contaminazione con gli inferi, perché viene prodotta anche dalla saliva del cane che fa la guardia all'inferno, come poi lo rilegge anche lo stesso Dante. Quindi un allucinogeno fortissimo, che già conoscevano le tue streghe. Esattamente, lo conoscevano già le streghe, poi la chimica, meglio degli alchimisti delle streghe, ha spiegato che ha degli effetti anche positivi. Se usato con certe dosi, ha una funzione di controllarti il battito cardiaco, di farti passare la febbre. Se esageri, però ha ti produce perdita di sensibilità, parestesie, cioè forti formicolie alle estremità, alle gambe e alle mani. E infatti le streghe, quando lo prendevano in quantità smodate, avvertivano, Culiano ha scritto pagine bellissime su questo, dei fortissimi formicolii alle braccia e alle gambe, che producevano una sorta di, come dire, di sensazione di sollevamento da terra, di lievitazione. Non sentivano più le gambe, quindi avevano l'impressione di volare. Le gambe erano allucinate da questa pianta, avevano la sensazione del volo. Ora, siccome questa pianta la si può assumere in tanti modi, ma non solo per bocca, le streghe avevano ben capito che se avessero spalmato il manico della scopa di un unguento a base di aconite, se lo fossero sfregato tra le gambe o addirittura infilato il manico della scopa nell'organo genitale femminile, le pareti dell'organo stesso, vaginali, avrebbero assunto con più efficacia e più rapidamente la sostanza, il principio attivo di questa sostanza, e quindi l'effetto sarebbe stato più istantaneo e più veloce. Il volo delle streghe, per questo le streghe volano sulla scopa. Certo, i fanatici di Harry Potter avranno avuto un sussulto, la Nimbus 2000, abbiamo capito che Harry Potter per volare non è che proprio la cavalcasse. Ma adesso, salutando Stefano Morigi, vorrei fare un cambio veloce di pagina e arrivare a una figura simbolica che non si sa bene se sia strega, se sia soltanto una fattucchiera. Era comunque, svolgeva nella società sarda, e probabilmente ancora pare che lo svolga, almeno così dicono le voci, a volte molto timide, a volte molto reticenti, che è una cosa fondamentale. Era la donna che faceva allo stesso tempo nascere, allo stesso tempo morire. Era colei che veniva chiamata nelle case, ci sono testimonianze ancora fino agli anni 60, quando una persona non voleva morire, non si decideva di morire, andava lei e aiutava questa persona a trapassare. Era la femmina Cabadora. Io feci una volta un'inchiesta sulla femmina Cabadora e girai tutta la Sardegna e vidi che era una figura molto presente. Veniva chiamata nelle case, entrava questa vecchia con il grembiule nero, se lo metteva sulla testa per non essere riconosciuta, era la levatrice, era comunque una persona addetta a nascere e a morire, quindi era colei che aveva il senso della vita. E c'erano varie maniere che lei usava per uccidere le persone. A Sindia usavano un giogo, facevano finta di passare il giogo dei buoi sul collo del morituro, quasi per fare un rituale propizio. In realtà gli spezzavano l'osso del collo, d'altre parti lo soffocava con il cuscino, d'altre parti ancora lo prendeva tra le gambe come se lo cullasse, come se fosse un bambino, mentre gli cantava una nenia gli spezzava il collo e lo soffocava. E in particolare esiste un posto dove usava uno strumento particolare che ancora esiste. Ho al telefono Pier Giacomo Pala, che è direttore proprietario del Museo della Gallura. Professor Pala, buongiorno. Buongiorno. Lei cos'ha della femmina Cabadora, questa figura stranissima in Sardegna? Non so bene se definirla strega o definirla dispensatrice di vita o morta, visto che stamattina ci chiamano donne capaci di uccidere. Nel suo museo cosa c'è della Cabadora? Beh, nel Museo Etnografico Galluras c'è il martello della femmina Cabadora, cioè l'attrezzo col quale appunto questa donna poneva fine alle sofferenze dei malati terminali. E questo martello com'è fatto? Come funzionava? Su Mazzolo si chiama? Su Mazzolo, oppure da noi a Luras, dove si trova il museo, si chiama Malteddu, che vuol dire martello. È un martello in legno dalle dimensioni, delle misure di 42 centimetri per 24. Veniva appunto utilizzato da questa figura che appunto poneva fine alle sofferenze dei malati terminali colpendo appunto sulla testa. Quello che a lei ha una datazione possibile? Come è arrivato al suo museo questo martello? Allora, il martello arriva al museo dopo 12 anni di ricerca. Io parto appunto, inizio la ricerca partendo dal fatto che sa femmina Cabadora o Cabadora era anche la levatrice, quindi colei che aiutava a nascere, aiutava a morire. E appunto partendo dalla levatrice, dalla Mastre Baltu, ho rintracciato lo spazio, la casa della campagna gallurese dove una di queste donne aveva abitato. Inizio la ricerca appunto nella campagna. E lì ha trovato il mazzolo, il martello della Cabadora. E lì, nascosto in un muretto a secco, ho trovato il martello della femmina Cabadora. Io sono già oltre il tempo di chiusura e riprenderò questo argomento. Mi piace chiudere in questa maniera. Abbiamo iniziato con il Malleus Maleficarum, il martello delle streghe, che era lo strumento per ucciderle. Terminiamo con il martello della strega Cabadora, che è l'oggetto che usa la strega per uccidere le persone che non hanno più speranza di vita. A domani.